Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. La caduta del Milan cambia notevolmente non soltanto la classifica attuale, ma anche le prospettive. Con 6 punti di vantaggio, l'Inter al momento ha praticamente 2 partite di margine. Ne restano 3 da giocare prima della sosta di Capodanno, con il confronto diretto tra Juventus e Milan. Dunque questo gruzzolo nerazzurro potrebbe anche aumentare in vista dell'anno nuovo. Anche il colpo del Chievo in coda cambia notevolmente gli equilibri, perché passare da 6 a 9 punti con questa inattesa vittoria di Udine significa riagganciare la coda, riacciuffare più o meno la coda del gruppo. È importante psicologicamente, lo è anche dal punto di vista oggettivamente della classifica. Sono tanti i numeri interessanti di oggi, ve ne darò poi alcuni che riguardano i gol segnati, che riguardano soprattutto, e questi sono numeri tristi, le presenze di ieri dei paganti negli stadi. Comincerei però dai commenti dei due allenatori al posticipo di ieri sera, perché sono entrambi molto, molto significativi. Parte Ancelotti. Sicuramente ci abbiamo messo del nostro, perché abbiamo sofferto molto il ritmo e l'aggressività, non siamo riusciti a giocare come volevamo e non abbiamo fatto difeso come era nelle nostre intenzioni. Sapevamo che Palermo sono molto bravi nel fraseggio sulla tre quarti, quindi dovevamo stare con linee un po' più strette, con più aggressività, per cercare di avere meno pericoli. È mancato il ritmo della squadra, insomma, abbiamo fatto marcature blande in tutte le zone del campo e loro hanno avuto facilità nel fraseggio sulla tre quarti. Una sconfitta pesante, perché viene in un momento importante del campionato, però questa squadra ha inanellato un'ottima serie di risultati, quindi credo che questa sconfitta, non dico che è salutare, però era un periodo in cui la squadra aveva perso un po' di intensità, un po' di attenzione. Magari possiamo ripartire da questa sconfitta per fare un'altra serie importante. E questo era Ancelotti. Molto, molto significativo anche un passaggio del commento alla partita da parte di Ballardini. Il Palermo ha fatto una grande partita, ha corso molto, ha giocato, ha pressato, quindi bene. Cavani ha fatto una grande partita, è un attaccante un po' atipico, perché corre tantissimo, viene incontro, va in profondità, aiuta la squadra, quindi noi siamo contenti dei giocatori che abbiamo. Ho detto che il Milan, perché non ha la Coppa dei Campioni, per me è favorito, però bisogna correre per giocare a calcio, oltre alle qualità che sono qualità notevoli, quelle che ha il Milan, però bisogna correre. Io ho sempre detto che l'obiettivo più o meno è lo stesso, ma il come noi lo raggiungiamo, quindi la strada che noi così ricerchiamo nel lavoro è diversa, però gli obiettivi sono quelli, perché vedere una squadra che gioca in velocità, vedere una squadra che pressa alto, che raddoppia, questo credo sia l'obiettivo di qualsiasi allenatore. Però bisogna correre per giocare a calcio, ripetuto due volte, tra l'altro con quel tono assolutamente normale, assolutamente come di chi sta dicendo un'ovvietà persino banale, ma in realtà, dato che Ballardini banale non è, dice una cosa molto significativa. Io non credo possa essere un caso che ieri sera mancasse Gattuso, è l'unico uomo che al Milan di quest'anno non può davvero mai mancare, e possibilmente in coppia con Ambrosini. Questi erano i due commenti ereditati da ieri più significativi, perché hanno riguardato un risultato che, se non una svolta definitiva, certamente un segnale negativo in questo caso al campionato l'hanno dato. Però sono altrettanto interessanti due frammenti del dopo partita di Mourinho ieri, uno che riguarda un suo giocatore e di conseguenza il pubblico, e un altro che riguarda un altro suo giocatore. Li sentirei entrambi, cominciando dal frammento dedicato a Maicon. Quello che io chiedo è che il nostro stadio, una squadra che va prima in classifica, una squadra che ha fatto un bellissimo primo tempo e ha giocato con tranquillità il secondo tempo. Mi dispiace tanto vedere, per esempio, fischiare un giocatore che perde una palla. Chissà, nessuno di loro sa quello che ha fatto Maicon oggi. Maicon oggi ha giocato infortunato, Maicon oggi ha giocato contro la volontà del dipartimento medico, Maicon oggi ha giocato contro la mia propria volontà, ma lui ha detto: io gioco e nessuno mi dice che non gioco. Questo è il tipo di giocatore che c'è in questa squadra. Lui è solo un esempio, perché abbiamo di tanto di più, e ripeto, penso che meritano di più dei suoi tifosi. Beh, insomma, a sentirlo, visto con un pizzico di ironia, si potrebbe anche dire che l'Inter comanda Maicon, perché che ne dicano Mourinho o il medico, Maicon, se decide di giocare, gioca. Evidentemente il tono, il significato di quello che, insomma, che Mourinho ha detto è ben diverso, cioè la dedizione di questo giocatore, e quindi il fatto che insomma, i fischi che una parte del pubblico gli ha dedicato fossero, a detta di Mourinho, particolarmente ingenerosi. Poi l'allenatore dell'Inter ha dedicato un altro frammento del suo dopopartita a un altro giocatore, a Balotelli, e qui i toni sono cambiati. Difficile parlare con voi di questa situazione perché è una situazione personale. Ovviamente ieri abbiamo avuto l'ennesima conversazione insieme e io sono ovviamente preoccupato perché lui è patrimonio del calcio italiano, ma è patrimonio del mio club, e per questo è ovviamente la mia responsabilità. Mi sembra che dobbiamo lavorare insieme meglio, e lui deve capire le cose che sono importanti per me e che io penso che sono importanti per lui e per il suo futuro. E una delle cose che ho detto di un modo molto, molto diretto e obiettivo è che quando uno di 16-18 anni ha nella sua squadra un esempio di tutti gli altri, di 33, 34, 35, di Zanetti, di Cruz, di Figo, di Cordoba, di Samuel, di tutti quelli che sono esempi incredibili di professionisti che lavorano tutti i giorni al massimo del suo potenziale, io non posso accettare che uno che in questo momento non è niente, è semplicemente come tu dici, un patrimonio, una speranza, un talento che non è arrivato ancora, non può lavorare meno di loro, e questo per me è fondamentale. Lui deve lavorare molto di più. È una strategia diversa da quella di Mancini. Mancini, se ricorderete, usava con Balotelli bastone e carota. Mi pare che Mourinho sia passato al bastone e bastone, e lo dimostra, lo conferma questo intervento molto duro e probabilmente molto condivisibile, perché insomma, io credo che nessuno sia così autolesionista da voler frenare la crescita di un ragazzo, però evidentemente bisogna anche voler crescere, immagino, se no non si spiegherebbe questa, ripeto, questa durezza abbastanza insolita nei confronti di un diciottenne. È anche vero però che il diciottenne potrebbe avere qualche problema di incompatibilità con un tecnico che gli dà comunque molto meno spazio di quanto non gli desse l'allenatore precedente, che per mutuare un termine da Mourinho, proprio un pirla non era, soprattutto nell'individuazione del talento, essendo stato, a differenza di Mourinho, anche un grande talento da calciatore. E quindi insomma, non so quanto le strade di questi due, di un grande personaggio, di un grande tecnico come Mourinho, ma di una grande speranza come Balotelli, non so quanto queste strade possano coincidere ancora per molto tempo, insomma. 800 24 00 24 è, come sapete, il numero per intervenire in diretta. Qualche numero di giornata. Beh, uno arriva dalla Spagna ed è particolarmente significativo. Con quelli accusati nella partita di sabato persa sul campo del Getafe, il Real Madrid è arrivato a 24 infortuni da inizio stagione. 24 infortuni sono un numero assolutamente impressionante, 3 soltanto sabato nella sconfitta col Getafe, ma soprattutto di questi 24, 14 sono infortuni muscolari, dalla discreta serietà in su, comunque, che hanno costretto i giocatori a saltare dalle due partite in su. 14 infortuni muscolari significa che il Real Madrid ha chiesto spiegazioni ufficiali al preparatore atletico, che tra l'altro, curiosità, l'italiano Walter Di Salvo, che è stato in passato preparatore anche della Lazio e poi del Manchester United, se non ricordo male. Di Salvo a questo punto rischia seriamente il posto, a quanto dicono agenzie provenienti da Madrid, al pari, d'altra parte, dell'allenatore Schuster. Qualche altro numero, eravamo all'Inter. Beh, l'Inter in 5 gare, nelle ultime 5 ha preso 7 punti al Milan e 3 alla Juventus, va bene nel confronto diretto, 7 al Milan e ben 11 al Napoli. Questo spiega perché dopo il grande equilibrio di fine ottobre e inizio novembre, adesso questo equilibrio si sia spezzato. Il Milan era imbattuto da 11 partite in campionato oltre a quelle di Coppa. Anche la Roma ha rimontato 8 punti alla Lazio in 3 partite, confronto diretto compreso, e Totti è arrivato a 169 gol in Serie A. Era a pari merito con Savoldi al 12° posto della classifica dei cannonieri di tutti i tempi. Adesso è rimasto 12° da solo. Il prossimo giocatore del mirino è Boniperti, a 178 gol, quindi tra 9 gol, e poi poco più su Battistuta. Altre voci di ieri, per esempio quella abbastanza delusa ma realista tutto sommato di Reia, che ha visto una volta di più ridimensionati i sogni di grandezza assoluta del Napoli. Poi ne restano evidentemente di relative, quelli si possono fare. Oggi l'Inter ha trovato 2 gol inizialmente, che sono degli Eurogol, insomma. Nonostante quello, noi abbiamo fatto una buona prestazione. Anche il secondo tempo, l'Inter chiaramente ha avuto un'altra palla con Ibrahimovic sulla sinistra e ha parato Iezzo, poi per il resto li abbiamo contenuti bene, siamo ripartiti bene. Volevamo pareggiare questa gara perché erano le nostre possibilità. Mi dispiace solo questa mentalità del primo tempo, primo quarto d'ora. Siamo stati bassi, siamo stati raccolti nella nostra metà campo, soprattutto con gli esterni, dovevamo attaccarli un po' più alti e non dargli l'opportunità. E poi questi sono grandi giocatori perché hanno fatto le giocate straordinarie. Insomma, chi si pensa che un gol di questo genere, che poi tra l'altro Maicon voleva tirare, l'ha presa anche male, l'ha presa d'interno e poi ci è arrivato puntare col colpo di tacco, insomma, che quelli lì non te li aspetti, quelli lì sono giocate di grandi giocatori. Però sul fatto della fase difensiva lo rifarei, perché considerando Rinaldo, Cannavaro e lo stesso Aronica, sono 3 giocatori prestanti fisicamente, perché contro Ibrahimovic e contro Cruz devo mettere sicuramente delle torri, perché altrimenti noi la palla non la prendiamo poco. A metà campo, pazienza, mi dà geometrie diverse rispetto a Blasi, un giocatore che ha altre caratteristiche e ha fatto secondo me molto bene. E davanti Zala era quello che mi permetteva di tenere su palla e l'ha fatto molto bene anche lui. Zala sarebbe Zalaieta, è strano come, cioè, per risparmiare 4 vocali, no, in un discorso così lungo si arrivi da Zalaieta a Zala. Vabbè, comunque è vero che l'Inter ha segnato 2 gol di grande qualità, perché anche il primo, per averlo realizzato un difensore, è una prodezza assoluta, ma anche il Napoli poi ha segnato, se parliamo di qualità, un gol di altissimo livello sia sul piano della combinazione che sul piano poi della conclusione vera e propria. Ci sono i primi ascoltatori di oggi, c'è anche un messaggio firmato Fede, Fede-Juve, nel senso che è un ascoltatore fedele ed è un tifoso juventino dichiarato, che scrive, fa una riflessione molto intelligente per il mio, molto documentata. Parlo di errori arbitrali, per ora direi che gli errori tecnici degli arbitri sono pro Milan, quelli disciplinari pro Inter, quelli degli assistenti pro Juve. E devo dire che così a naso mi sembra che ci stia, cioè, mi sembra che questa sia un'analisi esatta. Fermo restando che ieri per fortuna di errori ce ne sono stati molto, ma molto pochi, direi anche ininfluenti, così a grandi linee, se non forse per un rigore che avrebbe potuto sarebbe stato giusto concedere alla Fiorentina, e quindi sarebbe forse cambiato o poteva cambiare il risultato dell'Olimpico. Il primo ascoltatore in linea è Francesco, ha chiamato da Firenze. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, volevo far intervenire dicendo, parto del dire che sono un grandissimo tifoso dell'Inter. Sì. L'ho seguita in Italia, l'ho seguita in Europa e tutto. Ma da quando è arrivato il signor Mourinho, come si chiama? Special One, giusto? Io ho smesso di seguirla perché è una persona sinceramente che tanto modesta, vedo che è buona a vantarsi. Finora sta facendo quello che faceva Mancini, anzi forse anche meglio, che Mancini sinceramente non mi ha fatto vedere niente di nuovo, in poche parole. E poi anche scusi se cambio discorso, e anche il discorso su Cassano, si dovrebbe vergognare a scrivere una cosa del genere, a scrivere quel libro, che uno che fa quelle cose, che è coerente di quello che ha fatto, lo rende anche pubblico. Complimenti a Cassano. Beh, non inediti d'altra parte, no? Se parliamo della persona Cassano è, insomma, ha un senso, io credo almeno che abbia un senso quando è in campo e quando è in giornata sì, per il resto meno, decisamente molto meno. Flavio Suadi mi ha munito di una speciale classifica, quella che due o tre ascoltatori hanno chiesto via SMS, e cioè la classifica dei marcatori assoluti di tutti i tempi, visto che, come ricordavo prima, Totti ha lasciato la compagnia di Savoldi, con il quale era pari merito a quota 168, e adesso a 169. Io ho detto che attacca Boniperti a 178, errore, prima c'è Amadei a 174. Comunque, il primo è inarrivabile, credo, di tutti i tempi, è Silvio Piola, con 274 gol in Serie A. Nordal 225, Meazza 216, Altafini 216 alla pari di Meazza, Baggio 205, Amrin 190, Signori 188, Battistuta 184, Boniperti 178, Amedei 174. Io credo che Totti, se la salute l'assista, possa arrivare tranquillamente oltre Amrin, non so se a Baggio, però dipende da quante stagioni ancora tendine a ginocchia lo lasceranno giocare senza tormentarlo come nelle ultime. Tocca a Silvano da Como, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Tutto un complimento a lei, pacato, intelligente, non è piaggeria. Seconda cosa che volevo dire, sono d'accordissimo con l'atteggiamento su Balotelli. Credo che all'Inter soprattutto, e lo dico da interista, dai tempi delle caldaie troppo calde, dalle fughe con di notte, e questo è bravissimo, credo che un po' di rigore, e non parlo quello degli 11 metri, faccia assolutamente bene. Seconda considerazione, veramente capita, ma non mi trovo molto d'accordo con lei, con l'interpretazione di Mancini più in grado di riconoscere talenti, perché talento lo è stato, abbiamo esempi di allenatori talentuosissimi che hanno fatto malissimo, non hanno saputo riconoscere i giocatori, e invece di allenatori quali Sacchi, ad esempio, che io, ahimè, da buon interista ho dovuto purgarmi per molto tempo, che non è mai stato un campione, sempre ha saputo riconoscere benissimo i campioni. La ascolto per radio e le auguro ogni bene. Sì, no, se la ringrazio. No, su questo io credo che si potrebbe discutere a lungo, però non è il momento, e soprattutto le discussioni, queste discussioni così tecniche, tirando poi fuori gli esempi, incrociandoli, eccetera, si fanno con calma in osteria, non si fanno in un posto pubblico come questo, secondo me, perché presuppongono delle pause per ricostruire, per farsi venire in mente dei particolari. Simone Ravenna fa un'osservazione interessante: Muntari ha fatto due gol su due ciccati, però era lì. Allora, è interessante, Simone, nel senso che era lì che tagliava l'area due volte su due, su due tiri ciccati degli altri, ovviamente, cioè di Ibrahimovic lo scorso sabato e di Maicon ieri, è verissimo, però poi, mentre era stato molto fortunato contro la Juventus, è stato molto ma molto bravo ieri, perché il riflesso che ha avuto su quel colpo di tacco è indubbiamente da grande giocatore. Non si fanno per caso non ti riescono per caso quei colpi lì. Provincia di Milano, Mario, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo chiederle innanzitutto cosa ne pensa dell'antico vizio che hanno le televisioni, io sono un tifoso dell'Inter, nel trattare una vittoria dell'Inter contro il Napoli, che è stata secondo me una buona mezz'ora e basta, però gli abbiamo fatto due gol, come una cosa normale, come è stata commentata come una cosa brutta, e invece la vittoria del Milan sempre contro il Napoli come una grande prestazione, ricordando che il Napoli era in 11 contro 10. Volevo sentire cosa pensava lei di questa cosa qui. Penso che il tifo fa male, Mario, come sempre, fa male a chi guarda la TV, fa male anche a chi la TV la fa, in qualche caso, e credo che non sia difficile riconoscere i riferimenti, nel senso che spesso e volentieri accade quello che dice lei. Poi, senza esagerare, però, perché se un commentatore trova normale che l'Inter batte il Napoli in casa, beh, insomma, io credo che ci azzecchi. Poi normale non vuol dire banale, non vuol dire scontato, non vuol dire da minimizzare, ma insomma Credo che facesse parte di qualsiasi, che faccia parte di qualsiasi pronostico. Se l'Inter è, come è, la squadra favorita per vincere il campionato, e se il Napoli è un outsider, si scontrano la prima in classifica strafavorita e un outsider, vorrei sapere cosa c'è di sorprendente. Se l'Inter per una volta, cosa che non gli è riuscita molto quest'anno, fa due gol molto belli tra l'altro nella prima mezz'ora, quindi insomma capisco cosa intende, per una piccola parte le do ragione, ma mi pare anche che sia un tantinello esagerato quello che lei dice. Tocca a Giuseppe, provincia di Torino, buongiorno. Buongiorno, a proposito di Inter-Napoli, io sono tifoso del Napoli, volevo chiedere un parere riguardo a questo Napoli. Cioè, non le sembra che davanti gli manca proprio un attaccante di peso che la butta dentro, perché arriva tanto davanti, si corre così tanto, e poi questo Dennis che continua a dire non avete visto ancora il miglior Dennis, e sto Dennis non si vede mai. Beh, ieri non l'abbiamo visto sicuro, anche perché era in panchina, quindi insomma, è entrato a poco dalla fine e quindi era un po' dura da vedere. Ha giocato Zalaieta e tra l'altro non ha giocato male. Credo sia una questione di personalità soprattutto, cioè questi il Milan e l'Inter, perlomeno fuori casa, perché poi l'altro anno il Milan e l'Inter li ha pitturati entrambi al San Paolo, fuori casa quest'anno mi sembrano, sono sembrati ancora ostacoli troppo alti, sono sembrati proprio così, nel senso che dava quasi l'impressione in Napoli di avere un gap psicologico da colmare inizialmente, no? Poi quando ha preso le sue due perette si è sciolto, no? Come ogni tanto succede a quando uno sopravvaluta magari l'avversario o comunque non riesce a prendergli le misure psicologicamente prima ancora che tecnicamente, e da lì in avanti ha fatto la sua onesta partita, ma è anche vero che quegli altri erano due e poi un gol di vantaggio e l'hanno abbastanza tranquillamente amministrato. Tra i numeri che ci tenevo a segnalarvi oggi, uno riguarda i gol. I gol fatti fino a questo punto in 14 giornate sono 328, sono esattamente 25 meno di un anno fa, che erano 353. Ora non è che sia questo calo di produzione così impressionante, cioè ci sono altri numeri che vanno peggio nell'economia globale, non in quella del campionato. Però comunque è un calo abbastanza significativo, perché è un calo quasi del 10%. E quindi non è un caso, insomma, che si trovi, insomma, che si veda un calcio un pochino meno spettacolare di quello che, o comunque meno scoppiettante, meno divertente di quello complessivamente che si vedeva un anno fa. Io credo che molto dipenda dalla Roma, che adesso si sta ritrovando poco alla volta, ma che non sta, proprio perché deve risalire ad ogni costo, non sta facendo il calcio che faceva nei suoi tempi migliori. Insomma, fatto sta ed è che mancano l'appello questi 25 gol, che in 14 giornate sono abbastanza tanti. Per esempio ieri ne sono stati segnati 21, allora 25 in meno vuol dire che praticamente è una giornata in meno di gol, ed è un dato che conta. Francesco, Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, per il futuro vede maggiore la potenzialità della Roma, del Napoli o della Fiorentina? E poi Roberto Mancini ha detto che se non avesse giocato nella Sampdoria ma in un club più potente avrebbe fatto una collezione di palloni d'oro. Io non credo questo. Lei cosa ne pensa? Grazie. No, io penso, questa è un'intervista, adesso vado a ripescarla, è un assunto di intervista che ho visto stamattina sulle agenzie, un'anticipazione di una lunga intervista che Mancini ha concesso a Guerin Sportivo. La frase è: se fossi andato via dalla Sampdoria avrei raccolto una collezione di palloni d'oro e in nazionale non avrei fatto vita grama, ma non ho alcun impianto, perché era più importante rimanere accanto a Paolo Mantovani e quell'esperienza vale più di tanti scudetti, di tanti palloni d'oro. Ora io credo che questa frase così iperbolica in realtà sia un omaggio, credo, non, anche se può essere letta come una cosa di grande iattanza, io credo che sia un omaggio alla memoria di Mantovani e al rapporto veramente filiale che Mancini aveva nei confronti di Mantovani, e non una una sbrufonata. Poi è chiaro che giocatori di quel talento, perché non so se lei ricorda Mancini o meno in campo, ma il Mancini delle grandi giornate era veramente un grande, ma grande giocatore. È chiaro che giocatori di quel talento hanno un io, non dico smisurato, ma insomma abbastanza cospicuo, quindi è ovvio che ci sia un po' di anche di quella componente, no, in questa frase. Me la ripeto, conoscendolo e sapendo che esperienza aveva, che rapporto aveva con Mantovani, credo che sia più quello l'aspetto. Dopodiché, chi sia più futuribile tra Roma, Fiorentina e Napoli, io penso la Fiorentina, se parliamo di età media, ma penso che anche il Napoli, però se non si fa prendere dalla fregola di magari di bruciare le tappe, può avere un futuro interessante. La Roma meno, nel senso che la Roma è una squadra che sta per andare in scadenza anagrafica, poi augurandosi che sia il più tardi possibile, ma insomma i suoi uomini determinanti, a partire da Totti, un grandissimo futuro davanti non ce l'hanno più. Ci sta ancora un ascoltatore prima dell'intervallo delle borse. Corrado, provincia di Grosseto, buongiorno. Sì, buongiorno e grazie per il collegamento. Senta, le volevo chiedere una cosa, vedendo la partita di ieri sera del Milan, io sono un tifoso del Milan, se c'è una certa dipendenza psicologica nelle ripartenze, nel passare sempre la palla a Pirlo, che essendo appena rientrato da un infortunio, praticamente anni hanno creato questo equilibrio tattico nel passare la palla a questo giocatore, che quindi crea dei problemi quando questo ancora non è a una forma più che sufficiente. Sì, può essere. Adesso non so se sia dipendenza psicologica o meno. So che in questo momento il Milan sta anche pagando lo scotto del rientro di Pirlo. Pirlo è un giocatore a cui non puoi rinunciare, perlomeno in prospettiva. Se non lo mandi in campo, non gli fai ritrovare la condizione. Ma in un periodo in cui il Milan già soffre, in un anno in cui il Milan già soffre di dinamica, e la sera che non c'è Gattuso, beh, sono ovviamente operazioni un po' azzardate di cui finisci per pagar dazio. Continuano a essere molti gli ascoltatori già collegati, allora spazio a loro, poi magari qualche altra voce, qualche notizia, qualche mail arrivata. Fedele da Bologna, buongiorno. Buongiorno, ascolti, sono un tifoso milanista. Le volevo fare una domanda sui due centrali del Milan e su un centrocampista come Gattuso. Cioè, il Milan da 2-3 anni ha problemi in difesa, specialmente con questi due centrali, e quando Gattuso è assente puntualmente viene una partita brutta o dove si perde. Quindi cosa può fare il Milan? Ci sono dei difensori centrali da trovare, far giocare, oppure che facciamo? Chiudiamo baracca senza Gattuso e senza dei difensori centrali, diciamo, all'altezza? L'ascolto per la radio, grazie. C'è poco da ascoltare, Fedele, c'è da far guarire Nesta, cosa che mi sembra che più passa il tempo e più è problematica. Ci sarebbe da scoprire l'oggetto misterioso Senderos, che è arrivato dall'Arsenal, mi pare, in estate. Ogni tanto si legge di qualcun altro. Io credo che la difesa del Milan, la coppia centrale del Milan di questa stagione, proprio per come è fatta di rincalzi, stia facendo di rincalzi o comunque di soluzioni che non erano al 50%, diciamo, per quello che rappresenta Nesta, ma insomma un po' in generale, un po' in assoluto, mi sembra che stia facendo, non dico benissimo, ma abbastanza bene, insomma, forse meno peggio di quello che era lecito temere. Poi ogni tanto c'è la flessione, questo è un momento indubbiamente di flessione, perché se pensiamo al gol subito a Lecce a tempo scaduto, se pensiamo ai due di Torino e ai tre di ieri, beh, cominciano a crescere un po', in maniera un po' impressionante di numero. Non toglierei nemmeno però i meriti che vanno riconosciuti al Palermo, che comunque ogni tanto capita che una squadra di classifica media come quest'anno, ma di qualità, di potenzialità medio-alte come il Palermo ha, ogni tanto capita che ti possa che possa centrare la serata e darti magari anche un po' di bambolina, sempre che tu appunto faccia qualcosa per concedergliela. Ma non è per la coppia centrale, in ogni caso è per tutto un impianto di squadra e per troppi giocolieri in quelle partite che accade questo, io credo. Giuseppe, Reggio Emilia, buongiorno. Eh, Sì, buongiorno. Senta, volevo parlare del Torino, sono un tifoso granata da sempre e volevo dire anche quest'anno per l'ennesima volta non riusciamo mai ad affrontare un inizio di campionato degno del nome storico che appunto porta questa società. Anche ieri abbiamo perso una partita veramente in maniera tragica, vorrei dire, perché insomma non si può non giocare così dopo una prestazione come quella col Milan. E dicevo al centralino che sembriamo quasi Cairo sembra quasi il Moratti dei poveri, noi sembriamo quasi l'Inter di qualche anno fa, solo che appunto l'Inter dei poveri, perché non riusciamo mai a concretizzare un campionato appunto degno del nostro nome. L'ascolto per radio, grazie. Ha poco da ascoltarmi, cosa vuole che le dica? Ha detto tutto lei e ha detto, al di là dei paragoni, insomma, ha detto più o meno tutto giusto. Credo che, non so se Cairo, no, se Cairo, non so se De Biasi arriva stasera, nel senso della panchina ovviamente, perché ma insomma, mi pare di capire che la sorte sia abbastanza segnata, e mi pare anche che a segnarla sia stato appunto questo rendimento progressivamente sempre più deludente che il Torino ha. Mi pare sia la quinta sconfitta consecutiva in trasferta, e non è che in casa le cose vadano poi particolarmente meglio. Torniamo a sentire le disamine sul sottoclou di ieri, per esempio quella di Spalletti su Roma-Fiorentina. È stata una partita apertissima, giocata benissimo da entrambe le squadre. E purtroppo oggi c'è poi una squadra, una tifoseria che è amareggiata per la sconfitta, però io penso che dovrebbe essere dato forza a quello che è stato lo spettacolo che hanno offerto le due squadre che potevano uscire tutte e due vincitrici da questo confronto, e come ha detto Daniele poi con un punteggio largo. Sarà difficile, perché poi il risultato sposterà quelli che sono poi le opinioni e i pensieri, però oggi le due squadre sono meritevoli di applausi entrambe. Questa è l'opinione di Spalletti, e mi pare giusto sentire quella che diverge molto poco tra l'altro da quella di Spalletti, anche perché Roma-Fiorentina è stata veramente una splendida partita, una delle più belle della stagione, al pari, mi ricordo un ascoltatore di cui ho appena letto il messaggio ma che non riesco più a rintracciare in questo momento, al pari di Fiorentino Udinese della giornata precedente. Sentiamo allora anche Prandelli. Ho visto una partita giocata da due squadre che volevano imporre il proprio gioco, che volevano vincere, e quindi torniamo a Firenze molto più convinti e motivati a continuare questo tipo di atteggiamento. Poi sono convinto, se daremo continuità a queste prestazioni a fine campionato di gol fuori casa e vittorie arriveranno. Ripeto, ero molto più preoccupato qualche giorno fa, invece la prestazione di oggi è stata una prestazione importante. Chiaro che poi torni con una sconfitta, però è una sconfitta che ci fa bene, nel senso che abbiamo veramente fatto una partita importante su un campo difficile, lo cercavamo, volevamo veramente fare questo tipo di prestazione proprio per creare nella mentalità dei giocatori la convinzione giusta. E io sono convinto che, ripeto, se riusciremo a dare continuità a queste prestazioni faremo bene anche fuori casa. Totti ha segnato 10 gol in più di Del Piero, scrive Tiziana, solo perché Alex ha giocato in Serie B. Comunque ne ha recuperati 10, legga questo messaggio, non faccia finta di non vederlo come al solito. Ma io ogni tanto c'è qualche messaggio idiota che faccio finta di non vedere. Non è questo caso, perché questo è un caso statistico e fa bene Tiziana ricordarlo. Del Piero è a 10 gol da Totti, e credo che aggiungerei all'anno di Serie B anche il fatto che Del Piero ha 2 anni in più e quindi ha giocato più campionati di Totti. Ma in ogni caso questa è una corsa nella corsa ed è particolarmente appassionante, trattandosi, vediamo chi dei due, sperando che tutte e due godano di buona salute fino a chissà che età, vedremo chi dei due riuscirà ad arrivare più lontano. Da Verbania, Franco, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io sono contento delle dichiarazioni di Spalletti, di Prandelli, direi allenatori molto, molto signorili, no? Ieri le dichiarazioni che mi hanno fatto onore un po' al calcio, che effettivamente prende un'altra strada. Però vogliamo parlare di Mourinho. Anche lui, secondo me, io ho una grossa stima di lui. Certamente, insomma, sta stravolgendo, diciamo così, l'eterna un po' rappresentazione teatrale di fine partita davanti ai microfoni e alle telecamere, no? solitamente si assiste a un balletto noioso, no? Di complimenti, di reciproche recriminazioni, evitando con cura neanche contraddire a volte, ma di prostarsi quando dicono giornalisti, eccetera, eccetera. Lui va per la sua strada. Io direi finalmente un allenatore che fa di testa sua, almeno a me sembra che non ascolti nessuno e fa di testa sua, che non si fa mettere sotto da presidenti, da consiglieri, da opinionisti o da pseudo giornalisti, ma non parlo chiaramente di voi, ma di altre trasmissioni che a volte spengono la televisione, la radio per non sentire. Quindi io, a mio parere, meglio essere antipatici, ma fare delle scelte e dire quello che si pensa piuttosto che... Questo sì, Franco. Secondo me molto è... Questo sono... Condivido il discorso di Coccio Balotelli, no? Perché deve crescere, deve... Cioè, mi sembra molto concreto, mi sembra... Non c'è dubbio, Franco. Sono d'accordo con lei, riparliamone alle prime due sconfitte, perché poi arriveranno, no? Nel senso che non è ancora nato. Non è ancora nato il personaggio, per quanto speciale che non perde. Vediamo poi di quanto andrà ritarato questo atteggiamento, questa sincerità e questa estroversione nel momento in cui si perde, perché il calcio ha delle leggi non scritte che sono quelle, comunque non muteranno mai. Parliamo di Paganti, perché stamattina mi sono tolto lo sfizio di prendere i numeri dai tabellini delle partite, e allora sommando i 17.000 e 500 di Palermo, gli 8.400, gli 8.500 quasi dell'Olimpico, i 7.000 e qualcosa in più di San Siro per Inter-Napoli, stiamo parlando di Paganti, e numeri intorno ai sotto i 3.000 comunque per la Juventus e nevicava per l'Atalanta, intorno ai 1.500 per il Siena e per il Genoa, 898 a Udine, 1.782 a Siena, non comunicati a Cagliari e Catania, chissà perché a Cagliari e Catania non c'è mai verso dei veri Paganti, ci avranno la sua convenienza i presidenti, io immagino. Si arriva ad un totale di 43.000 erotti più Cagliari e Catania, quindi si arriva sì e no a 50.000 spettatori Paganti. Beh, io dico che 50.000 spettatori Paganti per un'intera giornata di Serie A, cioè per 10 partite, è un dato molto avvilente, un dato su cui riflettere, cioè su cui i dirigenti del calcio italiano, a cominciare dalla Lega, dovrebbero seriamente fare una riflessione, con tutte le attenuanti della giornata di ieri, a cominciare dalla precocità del famoso generale inverno, però il numero è sinceramente significativo, per non dire impressionante. Tocca a Giuseppe da Bologna, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini, complimenti per la trasmissione. Dunque, io sono un tifoso del Bologna, volevo un suo parere su Arrigoni e poi anche su Mihajlovic e quanto sta incidendo secondo lei sul profitto della squadra. E poi per ultima cosa, se secondo lei quante possibilità di salvarsi Bologna quest'anno, ecco. Sono tutte domande, Giuseppe, a cui faccio un po' fatica a rispondere, perché non saprei farle un paragone attendibile tra il Bologna di Arrigoni e il Bologna di Mihajlovic. È inutile che le dica dei risultati, dei quattro pareggi di fila, eccetera, perché insomma, queste cose le sa meglio di me. Sinceramente preferisco parlare se sono documentato, e in questo caso non lo sono un granché. Dopodiché non ho nemmeno la sfera di cristallo. Tutto quello che le posso dire è che mi pare che siano le ultime 5 oggi in classifica che si giocheranno la salvezza. 3 di queste 5 andranno giù, mi sembra che le altre abbiano, non contando la Sampdoria e la Roma ovviamente, che hanno tra l'altro una partita da recuperare, mi sembra che abbiano un vantaggio abbastanza congruo. A meno di un crollo di una squadra davanti, cioè dei Siena o dei Catania, ma che al momento mi sembra molto improbabile, credo che sia un 3 su 5, in queste 3 su 5 il Bologna dovrà fare una gran fatica. Guido da Varese ha scritto un bel messaggio, dice che caro Garanzini, lei ha quasi sempre ragione, perché sicuramente il tifo nuoce alla capacità dei tifosi di essere imparziali e anche dei commentatori, ma a proposito del primo intervento di oggi, se lei ascoltasse Piccinini commentare Palermo-Milan si renderebbe conto di quanto lo stipendio nuoccia anche più del tifo. Guido, non mi faccia far baruffa con Piccinini, per cortesia, che ha appena ricordato sul magazine del Corriere della Sera, uscito giovedì scorso, come fossi stato io a suo tempo a farlo assumere Infinivest come telecronista, e quindi, visto che c'è questo antico rapporto con Piccinini, ho letto il suo messaggio durissimo, Non ho idea, nel senso che ho visto e ascoltato una telecronaca diversa e quindi la prego, faccia il bravo. La SPAL in prima divisione, scrive Piero da Ferrara, oggi fa 6.000 spettatori, penso che un pubblico così in certi stadi di Serie A se lo scordino. Beh, Ferrara ha una grande tradizione calcistica, la sta riscoprendo, poi è ovvio che con la squadra in testa della classifica gli entusiasmi rifioriscano più facilmente. Toccava per l'appunto a Marco da Milano, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Io so che lei non la pensa come me perché ce l'avevamo sentiti tempo fa, però mi riallaccio ieri sera dopo la partita pessima del Milan, in diretta Ancelotti con Teocoli si è permesso di fare un appunto, dice siccome vediamo che il Milan quando è aggredito non sa reagire a centrocampo, forse è il caso di provare a cambiare gioco, di inventare qualcosa, l'ha detto in tono umile e tranquillo. Ancelotti in maniera piccata ha detto no, io il Milan gioca così e quindi continuerà a giocare così. E Teocoli non gli ha risposto secondo me perché Marco, non ha potuto rispondergli, però io che vado anche a San Siro, Ancelotti non se ne può più. Ma non se ne può più di sentire un comico che spiega a un allenatore come deve giocare la sua squadra, o no? Lo metti dentro in primavera, gente che corre, perché quelli non corrono e noi la palla, quando ci aggrediscono, non la prendiamo mai. La difesa è quella che è, non vinceremo mai. Allora un allenatore secondo me può anche dire, possiamo provare a vedere qualche cosa di nuovo, possiamo provare a vedere, visto che non vinciamo, certo, qualcosa di diverso, non dire il Milan gioca così, come dire allora continuiamo a perdere. Le ripeto, evidentemente non riusciamo a comunicare, nel senso che ci resta un problema di microfono, ma torno a dire che se il revisionismo critico del gioco del Milan deve farlo un comico su Rai 2, io non so sinceramente più di che cosa stiamo parlando. Noti che ho grande stima di Teo Teocoli, la sua simpatia è straordinaria, il fatto che possa essere un buon intenditore di calcio è, per carità, è magari acclaratissimo, ma questo non toglie che magari se Ancelotti deve confrontarsi con, adesso io non so chi stia facendo quest'anno la Domenica Sportiva, ma credo Bagni, non so se Dossena o Collovati, okay. Se deve confrontarsi con uno che è lì a fare l'opinionista, perché magari quattro piade al ballon, come avrebbe detto Rocco, insomma quattro calci al pallone li ha tirati in vita sua, è un conto, ma se deve mettersi, perché capisce che se poi si entra in quel tipo di spirale televisivo di oggi, tu cominci a confrontare il tuo centrocampo con quello di Teocoli, ma poi la difesa devi metterla insieme alla Simone Ventura, e magari gli interscambi tra le punte con chi li fai, con DJ Francesco o con chi, non so, io credo che dovrebbero esserci dei limiti, fermo o con il nostro amico Rudy, per esempio, sto guardando al di là dal vetro, è tutto bello, ed è spaventoso i danni, sono spaventosi i danni che la televisione ha fatto in questi anni. Piero dalla provincia di Forlì e Cesena, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ritornando al discorso del calo degli spettatori, no? Prima ho sentito il tifoso della SPAL che diceva 6.000 paganti, a Cesena di abbonati, Serie C, 5.000 abbonati. Però questo, prescindere da questo, volevo dire, alle società conviene avere un contratto Sky o tifosi allo stadio? Beh, penso che lei abbia già risposto, però vede. Capito? Sì, no, ho capito benissimo, Piero. Però è sempre il solito vecchio discorso. A parte il fatto che io ho citato prima solo i numeri dei paganti e non quelli degli abbonati. Ci sono società che gli abbonati ne hanno tantissimi. Ma non si arriva mai al nocciolo del problema, che è questo. All'estero gli abbonati alla Pay TV sono anche di più. Parlo dell'Europa che conta dal punto di vista calcistico, con la differenza che gli stadi sono strapieni. Da noi ogni inquadratura, cioè a ogni domenica che passa, le inquadrature che ogni tanto, io non so se lei ha notato, già da anni ormai le telecamere sono ad alzo zero, no? Stanno belle basse, perché evidentemente, dato che tutto ormai è autopromozionale, se inquadri le curve vuote o le tribune vuote, è avvilente e poi l'economia va a rotoli, come direbbe qualcuno. Invece cosa fanno? Si cerca appunto di coprire, di evitare, di dettagliare queste zoomate avvilenti. Ma il fatto è che altrove gli stadi continuano ad essere pieni, pay TV o non pay TV, in Italia continuano ad essere sempre più vuoti. Poi le ragioni sono mille e le sappiamo e le ripassiamo ogni volta. Ripassiamo la parola chiave per non dimenticare di mandare in onda la rubrica di storia, e quindi che cosa è accaduto nello sport nel 1° dicembre con Nicola Filippone. Sembra ieri. 1° dicembre 1991, al Palais des Sports de Gerland di Lione, Guy Forget batte in 4 set Pete Sampras. La Francia, capitanata da Yannick Noah, ottiene così il punto decisivo per conquistare la Coppa Davis. È un trionfo storico per il tennis transalpino, che mancava all'appuntamento dal 1932. La Francia vincerà nuovamente il trofeo nel 96 e nel 2001. Complessivamente ha conquistato 9 edizioni della Davis, come la Gran Bretagna. Meglio hanno fatto solo gli Stati Uniti con 32 successi e l'Australia con 28. Un ascoltatore da Udine mi segnala, mi ricorda che ieri nella prima partita di Udine, nella prima mezz'ora, diluviava, ma non c'è dubbio, se no a Udine ci sono un po' più di 898 i paganti che discorso. Quello di ieri è probabilmente un caso limite, anche per ragioni meteorologiche, però ripeto, meteorologia o no, insomma, pioveva anche una volta in Serie A, ma arrivare a una cinquantina di migliaia di paganti con 10 partite, una volta erano 9 e negli anni migliori 8 col campionato a 16, direi che è secondo me abbastanza avvilente. Nicola, provincia di Chieti, buongiorno. Buongiorno Andrea, dottore. Dica. Allora, io vorrei fare un intervento sempre in merito alle inquadrature, come sentivo poc'anzi. In merito alla inquadratura del signor Galliani quando il Milan perde, io mi sorprendo non che il Milan perde, ma dell'espressione del signor Galliani. Cosa si aspettava con una campagna d'acquisti fatta in quel modo? Le premetto che sono un milanista dalla nascita praticamente, quindi vaccinato e rivaccinato. Cosa ne pensa un Lavezzi, mi sfugge il difensore, del nome del difensore di ieri sera del Napoli, che è stato veramente geniale, un Lavezzi, il difensore del Napoli, o un Mancini nel nuovo Milan come allenatore? Grazie. Grazie a lei. Io credo che la faccia che farebbe Galliani nel sentire di queste proposte sarebbe ancora più preoccupata e forse ancora meno serena di quello che già non appaia quando perde. Dopodiché io credo che se la tua squadra sta perdendo, chiunque tu abbia comprato, non puoi avere l'espressione allegra. Cioè, io trovo che abbiate alcune belle pretese voi tifosi, complessivamente. Chiudiamo con Davide da Livorno. Buon pomeriggio, dica. Sì, pronto, buon pomeriggio. Dica. Io sono un tifoso romanista. Sì. E sono mancato questi ultimi 2 mesi dall'Italia e mi trovavo fuori per lavoro. E devo dire che comunque ho seguito la squadra. E non lo so, io sono fiducioso su una buona rimonta, vista anche la partita di ieri con la Fiorentina. Volevo sapere un attimo la sua opinione. L'opinione è molto semplice, è un'opinione basata sui numeri. La Roma è a 7 punti dal quarto posto, un po' perché si è decisa a ripartire e un po' perché si sono sventuratamente fermate quelle davanti. A 7 punti dal quarto posto, con una partita in casa contro la Sampdoria da recuperare. Siamo a un terzo del campionato, quindi considerando l'organico e le potenzialità, io penso che avendo la Roma ritrovata il passo, la Roma sia forse tra le candidate più autorevoli a occupare quel quarto posto, sempre ammesso e non concesso che una delle due inseguitrici a quota 27, non dico quale, non, come dire, perda contatto ulteriormente e non possa essere a sua volta attaccabile. Il campionato è ancora molto molto lungo e questo credo che sia un dato di fatti. C'era Fabio Cantadori in regia oggi, c'era Flavio Soardi in redazione, adesso c'è il giornale radio.